24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Tra l'altro 30 luglio se lo condannano. Non so se l'hai capito, caro Giovanni, che non c'è nemmeno l'esercito di Silvio a difenderlo. Perché un conto è difenderlo in bassa stagione. Ma l'esercito di Silvio il 30 luglio è già tutto al billionaire, lo capisci? Questo è Crozza, tutti al billionaire il 30 luglio, oh io lo dico, il 30 luglio che è lunedì, anch'io sarò in vacanza, dal 30 luglio praticamente sono in vacanza, quanto mi dispiace, non sarò al billionaire, no voglio tranquillizzare, sarò fuori dall'Italia, quanto mi dispiace, proprio il 30 luglio, il giorno in cui la Cassazione decide, quanto mi dispiace. Pazienza, vabbè, insomma. Buongiorno, questa... Chi è? Sì, non c'è la contraffine 3, Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pievago di lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Vabbè, ma tanto il 30 luglio, appunto. Non ci sarò. Questa è 24 mattino. Alessandro Longoni in redazione, si stropiccia gli occhi, non è molto abituato a queste sveglie. Il nostro alpino Peter Bescapè, in regia, è sveglissimo, pronterrimo, e la nostra Paola Saluzzi c'è? Paola, ma voglio il bombardino, io questo punto. Bombardino alle 6:30, una matta scatenata. Vabbè, buongiorno a tutti, buongiorno, un nuovo mercoledì, sì. Da vivere, da pensare, da passare. Benissimo, c'è anche il nostro direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair, buongiorno, eccoci. Buongiorno, per ora mi accontenterei. Buongiorno di direttore. Cos'è che vuoi Luca, stai accontenti? Per ora mi accontenterei di vivere, poi vediamo. Di vivere, oh! No? Il saggio direttore ha ragione. Oh, finalmente troppo, Un po' di sano realismo contro l'ottimismo sfrenato di Paola Saluzzi. Voi sarete in ferie, tu Paola Saluzzi, il 30 luglio dove no, sei? No. Siamo al lavoro, sono al lavoro fino a 22 agosto. Occuparci della Cassazione. Tu, Luca Dini, sei io qui? Forse sarò in ferie. Forse sarò in ferie, dipende da come va. Apriamo il nostro Parlamento! Evviva! Sì! A tutti quanti! Io non lo voglio il caffè della Minetti. Ma chi è? Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, vabbè. Noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. È così. Cosa c'hai? Cosa c'hai, Paola? Devi subito commentare qualcosa. Vuoi dire qualcosa a questa signora? Vuoi dire qualcosa? No, è stata sé cosa mi fa tenerezza che ha detto brutto cretino. Come quando eravamo piccoli, anzi, era cretino! Dire cretino era un'offesa. un'offesona. Allora, di cosa dobbiamo parlare? Ma anche oggi il Corriere della Sera, pagina 3. Verderami scrive il solito copione noioso, sta roba della Cassazione, mamma mia. No, non ne parliamo. Allora, partiamo, stavolta voglio partire dalla copertina di Vanity Fair, perché cara Paola, non è che troverai questa volta muscoli o bellezze. Io ci spero tanto. Sai qual è la copertina di Vanity Fair? Chi c'è oggi in copertina? Tanto. C'è il Papa! Ma yes! Luca... Grande direttore! Ma come mai, Luca Dini, avete anticipato? Vabbè, insomma, il Papa ha compiuto un gesto storico, e poi è una persona davvero amata da tutti, almeno in questi primi mesi di papato, una persona che riscuote un'empatia proprio totale. Perché, direttore, avete scelto di mettere in anticipo l'uomo dell'anno a luglio, il Papa, Papa Francesco? Beh, perché ci sembra di poter anticipare che sarà lui, è già lui. Ho ricevuto delle critiche sul fatto che qualcuno dice: ma voi vi attaccate alle sterilità, ai segni, queste decisioni, il luogo della prima visita pastorale, la decisione di vestire in un certo modo, di abitare in un certo modo. Però secondo me nel suo caso veramente i gesti sono... I segni sono gesti fortissimi, sono gesti di discontinuità che hanno già un riflesso concreto nella vita della Chiesa, e penso anche nella io credo nella vita di tutti noi. Questo è vero, questo è vero. Però la stessa critica, posso, non alla scelta della copertina, ma la posso fare anch'io. Me lo sono posto come domanda, direttore. Cioè, non è che questo Papa che sta facendo, sta mettendo in campo dei gesti davvero straordinari e nuovi, ma pensate anche solo ai giovani, dire lo so che vi fa schifo vedere delle suore o dei preti su macchine di lusso, oppure tutte quelle parole semplici che ha riscoperto, il buongiorno, buonasera, buon pranzo, arrivederci, ci vediamo, no? Però un Papa si giudica poi da quello che è la, tra virgolette, la politica del Vaticano, oppure no? Non è che siamo veramente molto, molto abbacinati da questi gesti importanti che sta facendo? Penso che una dipenda dall'altra cosa. Comunque, adesso un paragone un po' quasi blasfemo, però ricordiamo tutti San Francesco, perché a un certo punto decide di spogliarsi, di vivere una vita povera. In un certo senso anche quello era un segno, cioè, essendo povero San Francesco non cambiava il mondo automaticamente, però insomma poi vediamo quello che ha lasciato come eredità. Quindi io penso che no, che non siano gesti. Non sono gesti. Comunque devo dire che avete chiamato, non so, Andrea Bocelli, Elton John, Giorgio Faletti, cioè intellettuali, cantanti, scrittori, personaggi, giornalisti, a commentare appunto i primi mesi di papato. Tu, Paola, che ne pensi? Allora, insomma, io qui sposo alle virgole, non alla lettera, il discorso del direttore Luca Dini. Noi siamo di fronte ad una rivoluzione della quale ci siamo perfettamente resi conto, alcuni quantomeno, una rivoluzione che non è soltanto nei gesti e nelle parole. Buonasera, è stata la prima cosa che ci ha detto uscendo sulla loggia. Questo è un soldato, questo è un gesuita, questo è un uomo che sta cambiando le sorti dello IOR, è un uomo che ha preso il Vaticano e lo ha, con rispetto, rovesciato come un calzino. Lo sta rovesciando, è un uomo che sta prendendo il concetto di segreteria di Stato e lo sta facendo diventare la segreteria dello Stato della città del Vaticano. È l'uomo che in maniera incredibile, paradossale per qualcuno, unisce alla purezza e alla bontà dei gesti la capacità di un capobranco leader rivoluzionario, esattamente come, e parlo da francescana, tifosa francescana, come amo dire, la mia macchina va da sola ad Assisi, come Francesco d'Assisi fece, perché Francesco d'Assisi, santo poverello, era un salto che aveva, come dire, i controattributi, perché era poverello, ma non ci chiamiamo bernardiniani invece che francescani. Se ci chiamiamo francescani è perché aveva l'amore verso la povertà. Quindi secondo te non sono, non sono solo i simboli, ma sta anche facendo una politica. Questa è una rivoluzione. Noi siamo di fronte alla rivoluzione, a un uomo che va nell'isola degli ultimi e dice grazie le autorità tutte a casa, tranne sindaco, parroco emigranti, e il vescovo emigranti. Più lo dico cazzuto che c'è, quello di Agrigento, punto a capo. Avete sentito, no, ma devo dire che grandissima scelta. Sicuramente è una scelta, si può dire questa, anche controcorrente per il giornale che fate, certamente. Luca, non è controcorrente, perché comunque copertine, quando va bene, cioè se la scelta è giusta, sono icone. Lui è comunque un'icona. Certamente sì. Pensavo ieri vi foste un attimo interrogati se fare la copertina nuova dell'anno a lui, al Papa o a Cicchito, che dice predicare è facile, fare politica poi su queste cose è difficile. Non certamente l'avete fatta sul nostro amico Boso. Avete sentito cosa ha detto il leghista Boso alla Zanzara? Ma sentite un po', è stato anche indagato è stato denunciato alla procura per, credo, istigazione all'odio razziale. Sentite cosa ha detto Erminio Boso a quei disgraziati di Parenzo e Cruciani che l'hanno chiamato. Mi dica la verità, Boso, allora lei è contento quando un barcone affonda? Sì. Eccolo. Sì, perché pagano quelle persone che giocano sulla pelle della gente. Ma muoiono delle persone, non gli scafisti, vergognati! Vabbè, qui poi Boso ha messo giù. Paola Saluzzi, cosa dobbiamo anche commentare? No, non lo commenti. No, non lo commenti. Tu, Luca Dini, vuoi... Una macina al collo, però, in un bagno in mare. Che dobbiamo dire? sul dare scandalo, non mi ricordo più. No, è terribile, cioè, appunto si commenta da solo, per fortuna. Ma ormai c'è il gusto in Italia, da parte di qualcuno, di dire queste cose di una gravità, come se fosse una cosa, ma sì, giustamente dice, muoiono delle persone, e vabbè. Però il giudizio è quello. Vabbè. Allora, a parte, io ho letto questa notizia, poi vediamo magari anche le questioni, se volete, politiche più pesanti. Una noia mortale. No, ma sai qual è la tragedia, sì. Alessandro? No, perché vabbè. Poi non so stare zitta. Ecco. Il problema è che questi, tutte le mattine, va bene, come dice Manzoni, quella mattina Don Rodrigo si svegliò. Sì. Ma queste frasi e questi modi di dire e questi pensieri, che non sono pensieri ma sono l'emissione di qualcosa dopo aver bevuto una bevanda gassata, se sono dei lutti, sì, mentali, sì, va bene, lo posso dire, l'ho detto. L'hai detto. Ecco, andrebbero tenuti veramente nel profondo, dovrebbero parlare in un angolo della cantina contro l'angolo, in muro. E invece, ecco, perché invece sono pensieri, perché quando affondo un balcone sono contento, sì, per quelli che hanno fatto. Sì, prova, sì, ad affondare in un balcone, sì, prova a stare attaccato 70 o quanti più minuti, se non ore, a una rete da tonni. Ma avevi detto che non lo commentavi. Ma per favore. Ecco, infatti, scusatemi. Andiamo avanti. Allora dovete dare un voto, siete pronti da 0 a 10, potete darlo. Sì. Allora, Letta è stato intervistato dalla BBC. Ora vi faccio sentire in inglese. Può partire, tanto all'inizio dice stiamo registrando, eccetera, e poi dopo, ecco, siete pronti, è da 0 a 10, un voto all'inglese di Enrico Letta, sentiamo, allora, stai, pronti, via. I think the message will be a message about the future of Europe, a future of Europe that I am sure that Italy and the UK can share. A different Europe from the Europe we are living in, which we are living today, because today Europe is not the Europe that we want. Ma io gli darei un 7, Luca Dini, tu hai vissuto tanto in America, io gli darei anche dal punto di vista grammaticale un 7, in which we live, Europe, cosa dici? Che dici? Dal punto di vista grammaticale anche tranquillamente un 8-9. Dal punto di vista della pronuncia un 6-7, però diciamo che per la media dei politici è un 10. È un 10, sicuramente. Tu, Paola, che... Ma gli do l'8,5 di Fellini, il voto più perfetto che ci sia. 8,5. Enrico Letta intervistato dalla BBC Enrico Slitta, cioè, ragazzi, questa cosa io l'ho detto da ieri, ho iniziato a dire che tutto succederà in autunno, tutto in autunno. Oggi leggi i giornali, il Porcellum è un mostro da cambiare, lo faremo in autunno. Paola Saluzzi, rinnoveremo il contratto in autunno. Luca Dini lo manderemo in vacanza in autunno, tutto in autunno succede, sarà quella, io lo ricorderanno nei libri di storia, quell'autunno memorabile. Beh, lo aspettiamo però in autunno, quantomeno, sì, no? Sì, l'autunno arriverà, diciamo, in autunno. Anche che al 10 luglio è coraggioso a dire in autunno, perché poi l'autunno arriva e tutti al 21 settembre lo aspettano al VAR. Ah, in autunno. Tra l'altro quest'anno ha detto che anche per decreto l'autunno arriva in autunno. È una roba incredibile. È tutto... Votate Milan. Bene. Devo salutare i nostri amici. Dov'è che sono? Ho perso il messaggio. Eccolo lì. Siro e Giuseppe, ci sono pazienti dell'ospedale. Ci chiamano, mi scrivono tutti i giorni. Oggi mi scrive Giuseppe che Siro dorme ancora e dovrei svegliarlo, è lì in ospedale che ci sta ascoltando. Siro, sveglia! Oh! Paola Saluzzi, sveglia Siro. Ma sveglia Siro, buongiorno Giuseppe, innanzitutto buongiorno, sì. scrollalo. Siro, svegliati, su, dai, che qua sono già le 6:46 minuti, andiamo ad ascoltare il traffico e poi rientriamo. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum 24 mattino. Guardia di finanza insegue rischiando la vita agli evasori fiscali, mentre alcuni magistrati su comode poltrone con la penna in mano fanno cadere il tutto in prescrizione. Dolce Gabbana hanno gabbato milioni di euro e non se ne parla più. Bello insegnamento. La sveglia! Ma il Papa si rende conto di quanti italiani stanno facendo una vita anche peggiore di questi migranti? Io non so veramente se fanno finta di non vedere e di non sentire sia i politici che anche il Vaticano. Mi chiamo Adamo. Volevo dire, stamattina la benzina 1.8.4, benzina è andata a fanculo, tutti quanti! Buongiorno, mi chiamo Mara. Desideravo dire a tutte quelle persone che non vanno a votare, che dicono che l'Italia è DM, che DM sono loro e che se poi in Italia DM non ci si trovano bene, facciano la valigia e se ne andassero. Però lo devono fare sul serio, non come fece Umberto Eco che lo disse, ma credo che non abbia mai mantenuto la promessa. Buongiorno, mi chiamo Massimo da Bologna. Ma queste carogne dei nostri politici non hanno paura di un effetto tipo Egitto? Io fossi in loro un po' lo temerei. Buongiorno Mila. Il cardinale Carlo Confalonieri, decano del Sacro Collegio fino alla morte a 93 anni, a chi gli chiese un giorno il segreto della sua lunga permanenza al servizio della Santa Sede, rispose: mai fare niente. I coglioni dei quasi 1000 politici a Roma l'hanno preso la lettera, solo che loro non fanno niente, ma purtroppo rubano e fanno disastri. Fuori coglioni dal Parlamento, con i bastoni, e sarà molto presto. Calma, signora, calma. Però questa cosa del non fare niente, effettivamente, lo so, Luca Dini e Paola Saluzzi, Luca, tu hai questa percezione, non fare niente. No? Cioè, questa è l'idea, è questa, l'idea di un immobilismo. In autunno si farà, questo. Non lo so, cioè, una volta non seguivamo così costantemente quello che si faceva in Parlamento, però in qualche modo le cose venivano fatte. A volte ho la sensazione che si parli forse delle cose sbagliate, io ho la sensazione che qualcuno che fa qualcosa ci sia. Qualcuno che fa qualcosa. Per esempio c'è il nostro saggio Paola Saluzzi, tu lo sai, il nostro mitico saggio D'Onofrio, il professor D'Onofrio, certo, che abbiamo avuto venerdì. No, ma non la sai, che ha detto: noi cosa fate? Noi pensiamo, senti. Che cosa fanno queste persone? Pensiamo, il pensiero è un'attività libera, pensiamo, è legittimo pensare o no. E siccome non siamo retribuiti, possiamo pensare gratuitamente o no? Paola Saluzzi, noi pensiamo, i saggi pensano. Ma questo, assolutamente sì, ci credo. Sì, pensano, quindi non è detto che non fanno nulla, pensano. E gratuitamente, si può o no? È legittimo o no pensare? No? Alessandro, Milan è un Spettino, cosa vuoi, direttore? Dimmi, certo. No, voglio dire una cosa della signora che legittimamente ha detto del Papa, certo. Lo sanno come vivono gli italiani. A volte molte persone non si rendono conto che molti di questi che arrivano, oltre a rischiare o a morire in mare, prima hanno attraversato probabilmente a piedi il Sahara, dove molti sono morti, sono stati detenuti in mezzi campi di concentramento di cui si parla pochissimo in Nord Africa, sono stati depredati di tutto, le donne violentate, cioè succede di tutto, è veramente, cioè, onestamente, paragonare la vita del più sfortunato degli italiani alla loro è scorretto. È un po' forte. Ma poi sì, c'è questo relativismo tutto, ma cosa c'entra? Ma cioè, come adesso sempre, direttore e Alessandro, nessuno prova per un attimo, per un giorno solo, a camminare, rubo il detto e lo storpio, agli indiani nativi d'America nei mocassini dell'altro. Non ci si prova mai. No, ma infatti poi guarda, c'è la gente che dice: ma il Papa va da quelli lì, ma non sa quanto stiamo male noi. Ma cosa c'entra? Ma allora uno non può fare niente se deve pensare sempre che c'è una cosa più importante da fare. Non fare niente. Infatti, è per quello che non fanno niente. C'è sempre una cosa più importante da fare, nel dubbio non si fa niente. Allora, voglio far sorridere. C'è un video, come si suol dire in questi casi, virale, che sta girando su YouTube. Cara Paola Saluzzi, ascolta bene, ascolta. A Napoli stanno per prendere un giocatore dal Marsiglia, pare. Questo calciatore si chiama Nkulu. Cosa ridi? Al che a Napoli, sentite, sono andati a chiedere: ma voi per 20 milioni lo prendereste Nkulu? Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo. Bigon sta trattando un giocatore del Marsiglia, Nkulu. E voi per 20 milioni di euro lo prendereste Nkulu? Andiamo a vedere se i napoletani lo prenderebbero. Per 20 milioni d'euro. Voi lo prendereste in culo? Io lo prenderei in culo. Ci va chi lo sta là, c'è domanda qui, perché lo pigliassi tu? Per 20 milioni di euro, voi lo prendereste in culo? No. Sì, in culo, sì. Lei lo prenderebbe in culo? Ah, in culo, sì. Ma sento con culo che ha senso. Per 20 milioni di euro, lo prendereste in culo? Aspetta, chi? Per 20 milioni di euro, lo prenderebbe in culo, sì o no? Sincero? Insomma. Questo Paola Saluzzi, insomma, il calciatore. Che fai? Vabbè, ma i napoletani sono straordinari. Vabbè, ma stiamo parlando di un'altra nazione, di un altro popolo. Vabbè, ma siamo veramente qui, sì, al genio più puro. I tradotti sono un po', come dire. E questo si chiama così, in culo. Giustamente. Pensa quando mi pare frutto il mio di nome, giustamente, ma può succedere. No, no, credevo che mi facessi risentire il mitico Pittella che ha superato il World Economic Forum. Invece questa è l'ultima. Questa è l'ultima, cioè questa veramente. Sì, Lucadini, c'è solo da dire che a Napoli sono straordinari, ma chi li ammazza? Sì. Ma questa con la gente che fa insomma 20 milioni, ho la sincerità, fa 20 milioni insomma che devo dire, vabbè che dobbiamo fare, ci dobbiamo fermare più o meno, sì. Oggi Paola Saluzzi, di che parli oggi? Chi inviti? Che c'hai? Berlusconi, non so. No. Berlusconi. Oggi abbiamo tanta politica, tanta economia, ovviamente collegata alla politica, e cerchiamo di parlare intorno ai pensieri che si fanno in questo momento per governare. Vabbè, ma anche noi in rassegna stampa, poi avremo Daniela Santanchè, avremo anche il ministro alla giustizia, Anna Maria Cancellieri, ospite alle 8.30 da noi. Allora, Paola Saluzzi, Sky TG 24 pomeriggio alle 15, e Luca Dini, grazie. Direttore di Vanity Fair, grazie, con il Papa Francesco in copertina, l'uomo dell'anno, grazie. Buona settimana, ci ritroviamo la prossima, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:16, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo i temi che affronteremo più avanti, o meglio gli ospiti. Oggi avremo ospite alle 8.30, dalle 8.30 alle 9 con noi il ministro alla giustizia, Anna Maria Cancellieri. Tanti temi che affronteremo, e avremo ospite invece alle 8.15, sul tema più legato alla politica e Berlusconi, Daniela Santanchè. Questi gli ospiti, e allora andiamo subito a tuffarci nella lettura dei quotidiani. È mercoledì 10 luglio e i titoli sono questi. Il Sole 24 Ore apre su lavoro, deroghe nazionali per il motore dell'Expo. Questa è la richiesta di Confindustria e partiti di più flessibilità nei contratti per l'Expo. La vicenda Berlusconi invece, ieri l'apertura del Corriere della Sera sui tempi di prescrizione che si accorciavano e la risposta della Cassazione che ha fissato per il giudizio definitivo sulla vicenda Mediaset. In appello è stato condannato a 4 anni Berlusconi, interdizione perpetua per 5 anni pubblici uffici, e la Cassazione ha fissato dunque velocemente il 30 luglio la sentenza definitiva. Il PDL contro la Cassazione, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Berlusconi subito la sentenza. Il Fatto Quotidiano, caso Mediaset, B pretende una corte di prescrizione, B Berlusconi. Il Giornale invece, persecuzione giudiziaria, banditi di Stato. Per Libero, Berlusconi all'ultima spiaggia. L'Unità, il processo breve non piace più. Mediaset, in Cassazione il 30 luglio, il PDL insorge. Il manifesto Giorni contati, e c'è la foto di Silvio Berlusconi, mentre l'apertura su Standard & Poor's, che declassa i conti dell'Italia, conti a rischio, Italia bocciata, così La Stampa, Il Messaggero, Italia declassata, l'ira del tesoro, mentre Avvenire, Standard & Poor's, riecco, Italia gambe, abbassa ancora il rating. Allora, come vedete, i temi di apertura sono l'economia, il lavoro, Standard & Poor's e la polemica politica dopo la decisione della Cassazione di fissare al 30 luglio l'udienza definitiva per il caso di Silvio Berlusconi. Voglio partire però, da, come al solito, da altre cose prima di tuffarci in quelle che sono le aperture dei giornali. Io non lo so come la pensiate voi, certamente questa è una proposta che riguarda tutti gli italiani, perché chi non è incappato in una multa? In una multa, voi che siete in questo momento al volante, nessuno credo al mondo abbia mai preso una multa in vita sua. Ebbene, non so come la pensiate voi, premesso, io penso che sia segno, segnale di un paese folle la proposta di scontare del 30% chi paga la multa entro i primi 5 giorni. Evidentemente, cioè, capisco la ratio, quando arrivano le multe molti dicono ma sì, pagherò, e uno la butta lì, oppure ma sì, farò ricorso, ma sì, tanto questa, c'ho l'amico avvocato che mi fa un ricorso e magari me la tolgono, oppure c'è chi ma sì, la lascio lì, tanto poi si dimenticheranno di chiedere. Questo è l'atteggiamento tipico di molti italiani, e allora per incentivare diciamo disincentivare i ricorsi e incentivare il fatto di pagare, cioè meglio subito e pochi, o meglio meno, la proposta è questa, del ministro dei trasporti Lupi: incassi certi e meno ricorsi, paghi subito la multa, arriva lo sconto del 30%. Per me è un segnale intanto di un paese un po' allo sbando, cioè pur di avere dei soldi ti do la multa perché meritavi la multa, ma se mi paghi entro 5 giorni facciamo il 30% di sconto. È come, siamo il paese, come diceva Enzo Biagi, per cui bisogna scrivere è severamente proibito fumare, perché proibito non basta, e quindi severamente proibito, altrimenti l'italiano non capisce, poi anche con severamente e con proibito fuma lo stesso. E allora la questione è questa: paghi subito la multa, arriva lo sconto del 30%. Una pagina sulla Stampa, ma su tutti i giornali, c'è questo tema che, ripeto, riguarda molti, molti italiani. Eccolo qui, mezza pagina sul Corriere della Sera, Margherita De Bac, la notizia viene anche richiamata in prima pagina: paghi subito, multa ridotta del 30%. Ed effettivamente, scrive il Corriere, quando arriva quella busta, il primo impulso è sempre metterla da parte, rinviare il pagamento, atteggiamento che non converrà più agli automobilisti italiani colpevoli di aver commesso un'infrazione stradale. Se pagheranno subito, entro 5 giorni, si potrebbero vedere ridotta la multa del 30%. Per carità, è una proposta per ora del ministro dei trasporti Lupi, un'idea però condivisa da vari parlamentari, proposta poi trasformata in un emendamento presentato al decreto legge del fare e quindi in discussione. L'iniziativa, secondo Lupi, è molto positiva, sono favorevole a salire allo sconto del 30%, il governo anche su questa linea, sarebbero risorse certe su cui contare, oltretutto eviterebbero contenziosi e sarebbe un segnale. E che tipo di segnale? E Lupi risponde così: per chi non ha rispettato le regole, la multa può diventare uno strumento educativo, se ottemperi subito, e non un'inutile vessazione. Ma a me sembra uno strumento educativo che, se uno prende la multa, se è meritata, la paga tutta, subito e punto. Ma evidentemente sono fatto in modo un po' strano. Comunque, questa notizia la trovate davvero diffusa su tutti i giornali. Cosa ha fatto? Un'altra notizia che riguarda molte persone, tante persone in Italia, è questa: dal punto di vista della legge, come viene citato su tutti i giornali, per esempio sono sul Secolo XIX, pagina 5, i figli naturali come i figli legittimi, la rivoluzione è in arrivo, la novità è un decreto legislativo che il Consiglio dei Ministri approverà nella prossima seduta. Le novità più importanti saranno due: i figli naturali, che prima avevano come parenti solo i genitori, acquisiranno nonni, nipoti, cugini, e la seconda riguarda i diritti di successione anche nei confronti di quei parenti che non sono madre e padre. Insomma, una vera e propria rivoluzione, racconta Giovanna Comandè, siamo sempre sul Secolo, pagina 5, nel diritto di famiglia, ce ne accorgeremo tutti presto, finora in molti non se ne sono resi conto, eppure è proprio una rivoluzione quella contenuta nella legge in arrivo, una legge che equiparerà i bambini nati fuori dal matrimonio e quelli nati dentro il matrimonio, ossia figli naturali e figli legittimi. D'altra parte non è una realtà di poco conto quella su cui si va a intervenire, si calcola infatti che oggi in Italia siano circa 134.000 i bambini che ogni anno nascono da coppie non sposate, il fenomeno è destinato a crescere sempre di più. Questa rivoluzione avverrà con un decreto legislativo che il Consiglio dei Ministri si è impegnato a approvare nella prossima seduta. Nella sostanza, il Presidente Letta, insieme ai Ministri dell'Interno, della Giustizia e Lavoro, emanerà un atto contenente il principio della unicità di Stato di ogni figlio, facendo così scomparire le differenze tra figli legittimi, naturali e adottivi. Per la legge saranno tutti solo figli. E questa è una cosa assolutamente positiva, e che arriva certamente se arriva in ritardo, però l'importante è che venga sanata. I figli adesso sono tutti uguali, questo è il titolo per la verità un po' ottimistico del Corriere della Sera, adesso no, ma in un decreto che arriverà questo è l'obiettivo, stessi diritti anche per chi nasce fuori dal matrimonio o viene adottato, il Corriere della Sera con Alessandra Rachi, mezza pagina su questo altro tema che davvero riguarda tutti gli italiani o tantissimi italiani. Oh, prima della pubblicità del meteo, che ha combinato e che è successo tra Renzi, sindaco di Firenze, e un senatore del Movimento 5 Stelle? Renzi si è arrabbiato e Renzi querela. La vicenda è sempre quella dell'affitto di Ponte Vecchio per una festa privata della Ferrari. Evidentemente questa cosa ha avuto degli strascichi non indifferenti. C'è stata, racconta il giornale con Emanuela Fontana, pagina 11, una interrogazione parlamentare di un senatore del Movimento 5 Stelle, vale a dire Maurizio Romani. L'onorevole ha chiesto chiarezza sulla decisione di Renzi di chiudere Ponte Vecchio per la Ferrari, ma secondo Renzi questa interrogazione era un po' allusiva, irrispettosa, tanto che, scrive un furioso Renzi al senatore Romani, ella adombra un fatto di eccezionale gravità, ritenendo che la concessione di Ponte Vecchio non nasca da un interesse civico, ma dal personale interesse del sindaco, che avrebbe fatto favore a soggetti economici forti, che potrebbero al momento giusto restituire in favore il favore fatto, favori personali. Si rende conto, senatore Romani, ha presente la portata diffamatoria di una simile dichiarazione, e così Renzi ha deciso di querelare. Se lei fosse un cittadino come gli altri risponderebbe davanti a un giudice, bene, dia segno della diversità del Movimento 5 Stelle da quella che voi definite la casta e chieda formalmente al Senato di rinunciare all'immunità parlamentare. Come risarcimento danni Renzi chiederà una cifra vicina ai 100.000 euro che vale, scrive, più o meno un anno della sua indennità di senatore comprensiva di diaria. Una cifra che, scrive Renzi, devolverò all'ospedale pediatrico Meyer. E vabbè, insomma, volano stracci e straccetti per questa festa che ha lasciato tanti strascichi e che chissà se porterà anche alle querele. C'è ancora tempo per una cosa sul Secolo XIX. Beh, questa è una notizia che, se fosse vera, farebbe esultare molti italiani. Se fosse vera, gli stop ai super stipendi, tremano i gran commi di Stato, scrive il Secolo a pagina 4 con Antonio Beccadelli, che il governo è pronto a bloccare il cumulo con la pensione delle Camere per i grandi dirigenti dello Stato. Fino a oggi cosa succedeva? Il consigliere parlamentare agganciato politicamente, meglio se in una fase apicale della propria carriera, andava in pensione percependo dalla Camera una buona uscita, un vitalizio che mai è inferiore ai 200.000 euro. Dopodiché questo pensionato d'oro incassava dalla politica un bel incarico, per esempio consigliere di Stato, magistrato della Corte dei Conti, membro di un'autority indipendente, professore universitario. A quel punto gli tocca, oltre alla pensione di Camera e Senato, intascare anche lo stipendio del nuovo incarico. I casi non sono pochi. Alla Camera basti pensare a Donato Marra, attuale segretario della Presidenza della Repubblica, andato in pensione da Montecitorio dove era segretario generale, venendo poi nominato consigliere di Stato. Due anni fa però Marra aveva precisato che all'atto della propria nomina era stato collocato dal Consiglio di Stato in posizione di fuori ruolo senza assegni. Ancora la Corte Costituzionale ha approdato nel Montecitorio Giuseppe Troccoli, al Consiglio di Stato della Camera sono andati recentemente gli ex vice segretari generali Claudio Boccia, Alessandro Palanza, mentre Francesco Posteraro è andato in pensione dalla Camera dopo essere stato eletto membro dell'Authority per le telecomunicazioni. Un altro ex vice segretario generale di Montecitorio, Vincenzo Lippolis, insegna diritto pubblico a Napoli. Insomma, sono tante le persone, o tante o poche, sono queste le persone per le quali l'esecutivo, il governo, sta pensando alla riforma del cumulo con la pensione delle Camere e quindi agli stop per i super stipendi. Succederà? Non succederà? Spunterà sempre il solito cavillo? Salva tutto? Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, 7:35 minuti, la politica è certamente tutta dominata dalla decisione della Cassazione di fissare al 30 luglio il grado di giudizio definitivo sulla vicenda Mediaset. Berlusconi è stato condannato in appello per frode fiscale a 4 anni, interdizione a 5 anni ai pubblici uffici, o meglio interdizione perpetua ai pubblici uffici. Allora che succede? Anzi 5 anni per l'appunto di interdizione ai pubblici uffici. Che succede? Che il 30 luglio ci potrebbe essere la condanna definitiva. Questo ha letteralmente terremotato ieri la giornata politica con le dichiarazioni. Mediaset, Cassazione decide il 30 luglio, così Donatella Stasio a pagina 14. Il Sole racconta intanto dal punto di vista tecnico perché la Cassazione ha deciso così. La legge è uguale per tutti, scrive Donatella Stasio, e lo è anche per la prassi seguita dalla Cassazione per i processi prossimi alla prescrizione. Non poteva dunque fare eccezione il processo Mediaset a Silvio Berlusconi, visto che il 1 agosto scatterà la prescrizione di una delle due frodi consumate dall'ex premier. Legge e prassi prevedono che in questi casi di urgenza i termini per fissare l'udienza possano essere ridotti fino a un terzo, 20 giorni invece di 30, e che se si ha ridosso della sospensione estiva il processo venga trattato ugualmente. Pertanto, in base a una legge del 69 e all'articolo 169 del Codice di Procedura Penale, nonché alle direttive impartite dal primo presidente di Cassazione, il processo Mediaset è stato fissato il 30 luglio. Tutto nella norma, insomma, sebbene il PDL gridi alla cospirazione, all'aberrazione, e anche l'avvocato Franco Coppi, che affianca Nicolò Ghedini, ammette che la decisione della Corte è formalmente corretta, ma si dice esterrefatto, perché non c'era ragione di fissare termini così brevi che incideranno sulla possibilità di difesa. Quindi il Sole scrive: dal punto di vista tecnico, meramente tecnico, non ci sono motivi per creare polemica, e per cui si potrebbe aggiungere anche la domanda di che cosa stiamo parlando. E stiamo parlando del fatto che in realtà i giornali non parlano d'altro. L'avvocato Franco Coppi, per l'appunto difensore di Berlusconi, intervistato da Liana Milella su Repubblica, dice: sono sorpreso, di più esterrefatto, un'udienza il 30 luglio non me l'aspettavo, assolutamente no, una sorpresa negativa per tanti motivi. Innanzitutto comprime le possibilità pratiche della difesa. Ghedini e io volevamo presentare motivi aggiunti, memorie, perché quelli già presentati sono solo abbozzati, avendo già dei termini ristretti li abbiamo buttati giù, ma in 20 giorni non si può fare più niente. L'anticipo danneggia il diritto alla piena difesa di Berlusconi, chiede Repubblica. In senso formale no, risponde Coppi, ma in senso sostanziale sì, perché taglia tempi di approfondimento assolutamente necessari. Ma quindi non ha pensato di contestare la decisione? Giuridicamente è impossibile. Insomma, a testimonianza che dal punto di vista della tecnica giuridica non c'è nulla da eccepire, però certo, dice Coppi, è sostanzialmente impedita la difesa a Berlusconi. Per dirla col PDL, è una decisione secondo lei contra personam? E qui Franco Coppi si rifà al vecchio detto di Andreotti: le rispondo come faceva un mio antico e autorevole cliente, a pensar male si commette peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Io non voglio commettere peccati, quindi non penso male, così Coppi. Ovviamente le reazioni politiche sono diverse. Berlusconi ufficialmente non parla, ma come al solito ci si esercita in quel straordinario elemento tecnico giornalistico che da anni è comparso sui giornali, ormai sembra non se ne possa fare a meno, che è il retroscena, cioè frasi attribuite a una persona dicendo coi suoi si è sfogato così. Il cavaliere pronto allo scontro finale per Repubblica, se mi condannano il governo è finito, ma romperò sull'economia e Renzi su questo mi aiuterà. Frasi, ripeto, attribuite da Berlusconi, da Repubblica a Berlusconi. La prova finale del complotto per Carmelo Lo Papa, sono a pagina 3 di Repubblica. Vogliono piazzare Loreto, vorrebbero che scappassi come Craxi, ma io resisto, seppure condannato non mi dimetto, tutto può succedere. E ancora sulla questione del governo, appunto, se mi condannano a quel punto, altro che congresso entro la fine dell'anno, Renzi è già in pista e il governo è finito. Per Francesco Verderami, pagina 3, del Corriere della Sera, anche qui le minacce alle larghe intese, quella finestra elettorale a ottobre, questo è il titolo, il cavaliere con i suoi accusa la procura di Milano di dettare i tempi. Secondo Verderami, Berlusconi avrebbe detto proprio questo, toghe politicizzate, è la procura di Milano che ha dettato la decisione alla Cassazione. Lo stesso Verderami, insomma, scrive, la trama è quella senza variazioni, ripetitiva, noiosa, se non fosse che l'evento potrebbe far collassare l'intero sistema già in preda alle prime convulsioni. Ci sarebbe già ottobre come finestra elettorale per andare a votare, e insomma le solite cose, in autunno. Tra l'altro, in autunno, ma come, è l'autunno dove si dovrebbe fare tutto, l'IVA, l'IMULTI, che sanitari, l'F35, l'abbattimento del debito pubblico, la spending review, no, tutto questo è in autunno, è previsto la legge elettorale, le province, cioè, sta a vedere che in autunno invece non si potrà fare niente perché si va a votare, mannaggia. Sull'esecutivo nessuna conseguenza, così Enrico Letta, questo l'ho detto da mesi, e l'ho anche twittato sul mio profilo Alino Milan. Sappiate che qualsiasi cosa succederà, Enrico Letta dirà sempre nessun problema per l'esecutivo, e infatti ieri l'ho ribadito. Sull'esecutivo nessuna conseguenza, questo è il titolo di pagina 5, la reazione di Enrico Letta nell'articolo di Marco Galluzzo, come dire, separare la vicenda Berlusconi dai problemi dell'Italia. Ieri ha fatto un'intervista a Ballarò e alle insistenze anche di Flores su questo tema ha detto a un certo punto Letta, non c'è solo Berlusconi, parliamo dei problemi dell'Italia. Sta di fatto che secondo il Messaggero Stefano, il presidente della commissione che dovrà giudicare in caso di condanna poi l'eventuale decadenza di Berlusconi dal Senato, Stefano di Sel, Dario Stefano, intervistato da Ettore Colombo, dice sull'interdizione convoco la giunta se serve pure in agosto. Sarò rigoroso sul rispetto di modalità di discussione che il regolamento ci impone, farò sì che tutti i componenti della giunta possano esprimere le loro opinioni in merito, ma non credo né accetterò tempi lunghi, anzi per me possiamo lavorare anche ad agosto se serve. Peraltro la nostra potrebbe configurarsi anche come una semplice presa d'atto, vedremo. Per la stampa il cavaliere pensa al blocco del Parlamento, pagina 7, secondo alcuni c'è il rischio, la possibilità dell'Aventino in qualche modo, cioè ritirare tutti i parlamentari dai lavori in Parlamento e Camera, in Camera e Senato. Per il giornale è una persecuzione giudiziaria, mette in prima pagina il giornale Silvio Berlusconi indagato e processato 34 volte, 0 condanne, 108 procedimenti, coinvolte 112 persone, 35 misure cautelari, 13 casi in espure disposto al rinvio a giudizio, insomma tutti i numeri che scrive Alessandro Sallusti sotto il titolo Banditi di Stato, quella che vedete a fianco è la storia in numeri della più grande persecuzione giudiziaria mai messa in atto al mondo contro un singolo uomo. Mi mandano in carcere per Libero, questo sarebbe lo sfogo di Berlusconi. Vabbè, insomma, questa è la vicenda che tiene banco a livello politico. Gli altri problemi, come ha detto Enrico Letta, uno dei problemi per andare all'economia è che Standard & Poor's si è svegliata e ha deciso di declassare l'Italia. I dettagli sono a pagina 7 del Sole con Isabella Bufacchi, a distanza di un anno e mezzo dall'ultimo declassamento sull'Italia, Standard & Poor's 18 mesi dopo, 18 mesi durante i quali il PIL e il rapporto debito-PIL sono peggiorati, le riforme non sono arrivate, ha deciso di fare l'ennesima retrocessione, tagliato di un gradino il rating dell'Italia da BBB+ a BBB. Vabbè, queste sono cose tecniche, prospettive che restano negative, dunque una probabilità su tre di nuovo declassamento nel 2013 o nel 2014. Anche qui, apriti cielo. Letta ha reagito, il nostro paese resta vigilato speciale, mentre arrabbiato è il vice ministro dell'economia Stefano Fassina, che anche oggi inanella un paio di interviste sulla Stampa e Repubblica. Sulla Stampa Fassina dice: le agenzie internazionali sono culturalmente inadeguate, questo è il titolo, non riesce ad accettare tutto ciò, dice, intervistato da Roberto Giovannini. È un giudizio sbagliato, dice Fassina, quello di Standard & Poor's. L'Italia quest'anno raggiungerà il pareggio di bilancio in termini strutturali, uno dei pochissimi paesi al di fuori della procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La valutazione di Standard & Poor's è un riflesso meccanico di un paradigma culturale inadeguato. Gli interventi su IVA e IMU citati da Standard & Poor's, come abbiamo ripetuto, saranno assolutamente compensati da coperture finanziarie solide. In più l'intervento su IVA avrà un riflesso positivo sull'economia reale, che è il vero problema da affrontare, su cui dovremo tutti concentrarci. Ribadisce gli stessi concetti a Repubblica. Però al di là di Standard & Poor's l'economia è bloccata. Ieri il presidente di Confindustria Squinzi ha invitato a cena presidenti di Camera, Senato, presidenti di commissioni, qualcuno è andato, altri no. Il presidente della commissione vigilanza Rai, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, ha detto: non si risolvono i problemi a cena, se Squinzi ha qualcosa da dire venga in Parlamento, non andiamo lui a cena in una cena ristretta. Non c'erano anche quelli del PDL, insomma è successa questa vicenda, erano impegnati in una complicata riunione alla presenza di Silvio Berlusconi dopo la vicenda, senza contare che poi credo Silvio Berlusconi non sia andato, non lo so. Comunque in questa cena si è parlato di come risollevare l'economia, e da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, una delle proposte, come oggi il titolo di apertura del Sole 24 Ore sul lavoro, le deroghe nazionali per il motore dell'Expo, cioè rivedere per 3 anni la disciplina dei contratti a tempo determinato, eliminando l'obbligo delle causali, insomma accelerare una flessibilizzazione del lavoro avendo come faro l'opportunità offerta dall'Expo. Questa è una delle proposte lanciate da Confindustria, i dettagli ci sono a pagina 3 del Sole 24 Ore. Le deroghe per Expo 2015 con eccezioni su tutto il territorio nazionale, una sperimentazione di flessibilità di contratti per 3 anni. D'altronde, che la situazione sia economicamente difficile, ieri lo ha ribadito anche Sergio Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat, che inaugurando in fabbrica tra gli operai della Sevel in Val di Sangro un nuovo investimento per il furgone Ducato, ha detto: senza regole non investiamo più. E cioè, senza regole certe, come racconta Andrea Malan, e sono sempre sul Sole a pagina 5, quello che annunciamo oggi sarà l'ultimo investimento di Fiat in Italia. Marchionne ha parlato di un paese che per anni ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, concentrato a distribuire ricchezze che diventavano sempre più scarse. Dice che l'unico modo per risalire la china è tornare a produrre. Per questo serve un grande sforzo collettivo, un piano di coesione nazionale per la ripresa economica, ma anche una pace sindacale, perché è essenziale ritrovare uno spirito di collaborazione per ripartire con lo sviluppo. Sta di fatto che anche per Repubblica, questo è il titolo, senza certezze non investo più in Italia. Poi ha fatto un'apertura la FIOM, il sindacato della FIOM, sì al vertice ma gli accordi devono restare. In qualche modo forse ha risposto anche alla presidente della Camera Laura Boldrini, che oggi fa un'intervista al Fatto Quotidiano. Laura Boldrini ha detto: vi ricordate, non vado alla presentazione di Val di Sangro per impegni istituzionali, ma aveva detto anche questa frase nella quale ribadisce oggi Laura Boldrini: io semplicemente ho detto che ci vuole rispetto dei lavoratori, un concetto che dovrebbe essere pacifico, lo dice la Costituzione, e questo scrivevo nella lettera a Marchionne. Non si può pensare che il gioco al ribasso sui diritti sia il modo per uscire dalla crisi. Allora, intervistata da Maria Grazia Gerina sul Fatto Quotidiano, parte da qui Laura Boldrini. E alla domanda: lei non è andata allo stabilimento Fiat? Marchionne lì ha attaccato quanti, anche da autorevoli istituzioni, considerano esercizio dei diritti comportamenti violenti. Ma risponde così Laura Boldrini: non credo che Marchionne si riferisse a me. Forse è un po' troppo ottimistica su questo. Comunque, io considero il mondo delle imprese centrale per la ripresa del paese. Per questo ho ricevuto delegazioni di imprenditori, sono andata dai giovani industriali, ho accolto l'invito del presidente di Confindustria, ma non posso esimermi dal ribadire che ci vuole rispetto dei lavoratori. Ecco, questo è il concetto che esprime Laura Boldrini. Poi parla di altri temi, parla anche a lungo della visita del Papa a Lampedusa. Lampedusa, Laura Boldrini, quando era diciamo, portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, ha vissuto tanti anni. E risponde infine anche a una domanda su Brunetta, che le dà dell'estremista. Salvini dice che lei strumentalizza il Papa. Risponde la Presidente della Camera: ormai il gioco è a chi rilancia di più, ma non è nel mio stile uscire dal linguaggio del rispetto. Quando uno ha buone ragioni non ricorre alle grida. Continuo nella mia strada, se questo provoca reazioni scomposte non è un mio problema. Non mi interessa assecondare il pensiero unico, seguo la mia coscienza, il programma che esposto il giorno in cui sono stata eletta dalla Presidenza della Camera, e quello è il mio impegno con gli italiani. A proposito di istituzioni, oggi alle 12 è il gran giorno per il Movimento 5 Stelle, andranno al Quirinale. La domanda è: ci sarà Grillo? Sì. Ci sarà Casaleggio? Boh. Il Fatto Quotidiano dice: Grillo e Casaleggio al Colle, Casaleggio partirà in treno da Milano e alle 12 sarà a Roma. L'Unità dice: Grillo al Colle, ma Casaleggio non ci sarà. Arcano mistero che verrà svelato e disvelato alle 12 al Quirinale. Due notizie per chiudere. Beh, uno è il premio La Carta Costa, ma prima guai per Lavezzi, ex calciatore del Napoli, racconta il Messaggero a pagina 11. La vicenda risale a un anno fa, primavera, quando fece il trasloco per andare in Francia e nell'aereo privato, controllo alla dogana, aprono una valigia e trovano in una valigia di Lavezzi una statua, ma non una statua qualunque, il busto marmoreo riproducente la testa di un filosofo risalente all'epoca romana, pezzo rarissimo proveniente probabilmente da Pompei. A che gli dicono: ma scusi, ma questa statua? Non lo so, me l'hanno regalata. E da qui Pompei, nei bagagli la statuetta di Pompei, Lavezzi indagato, brutte notizie. Non bastavano le grandi giudiziarie che ne ha sfiorato per un'inchiesta che vede coinvolti i suoi procuratori per evasione fiscale, ora è indagato per ricettazione e trafugamento di opere d'arte. Il pocio Ezechiel Lavezzi. Prendiamolo a Milan lo stesso, questo chi se ne frega. Il premio La Carta Costa, eccoci qua, oggi siamo sul Corriere della Sera per l'articolo più inutile ed scovato dai quotidiani, a mio insindacabile giudizio ovviamente. Maria Laura Rodotà, pagina 23 del Corriere, mezza pagina su George Clooney e le sue donne, contratti clo-clo-clo. Clooney, clo-clo-clo. Ogni due anni George Clooney cambia fidanzata. E allora Maria Laura Rodotà ripercorre un po' cosa ci deve essere per essere la fidanzata clo clo clo di George Clooney. Bisogna essere carine ma non travolgenti per non mettere in ombra il capo. L'ultima è tale Stacey Keibler. Dopo due anni anche lei, come Elisabetta Canalis, come altre, mollata, o meglio si è fatto mollare da lei per divergenze. George e le donne, i contratti clo clo clo. Ma Maria Laura Rodotà, ma chi se ne frega? Il mantra è sempre quello: la carta costa. 24 mattino. Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. La politica si interroga, ci sono polemiche dopo che la Cassazione ha fissato al 30 luglio l'udienza per il processo definitiva, per il processo Mediaset. Berlusconi è stato già condannato in appello a 4 anni ed è stato anche condannato per 5 anni all'interdizione dei pubblici uffici. Voglio salutare Daniela Santanchè, onorevole, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Senta, tecnicamente, scrivono oggi i giornali, la decisione della Cassazione è ineccepibile, cioè non è un qualcosa, anche lo stesso avvocato Coppi che l'ha definita, si è detto esterrefatto, però dice non è appellabile, non ci si può fare nulla. E allora, se la Cassazione può fare questo, che cos'è che desta scandalo secondo voi? Ma intanto che nella storia recente non c'è un caso uguale a questo del presidente Berlusconi, già questo insospettisce perché non è mai successo un caso simile. L'altra cosa che insospettisce è questa rapidità assoluta. Viviamo in un paese dove c'è bisogno come il pane della riforma della giustizia, perché la lentezza dei processi è una cosa che danneggia tutti gli italiani, danneggia le imprese, danneggia coloro che non vengono anche per questi motivi a investire nel nostro paese. Sì. Quando si tratta di Silvio Berlusconi invece abbiamo una magistratura perfetta, una magistratura efficientissima, una magistratura velocissima. E allora questo fa ben capire che c'è un gruppo di magistrati che vogliono prevalere sulla democrazia. Ma questi anche in Cassazione, perché in genere voi vi rapprendete con la Procura di Milano, soprattutto dove Berlusconi viene giudicato. In questo caso anche in Cassazione, secondo lei, sono magistrati? Guardi, noi ce la prendiamo con questi personaggi che vogliono prevalere sulla democrazia. Perché vede, quello che è successo ieri è certamente contro Berlusconi, ma è contro ugualmente la pacificazione, quello che avrebbe dovuto nascere anche insieme a questo governo, e contro questo governo sicuramente. Nonostante Letta dica non ci saranno ripercussioni? Ma guarda, il comportamento ieri di Letta a me non è piaciuto assolutamente niente, mi sembrava una di quelle tre scimmiette, non sento, non vedo, non parlo. Che il Presidente del Consiglio ieri non ha trovato un secondo, un minuto, una parola per stigmatizzare quello che era successo, io lo trovo un fatto grave. Ma mi scusi, perché stigma? Se dal punto di vista tecnico, lei dice certo hanno accelerato, ma dal punto di vista tecnico si fa, oggi il Sole scrive sarebbe stato una cosa, un'eccezione non farlo come si fa per tutti i processi quando rischiano la prescrizione, si fanno le sessioni feriali, diciamo quelle estive della Corte di Cassazione, sarebbe stata un'eccezione fare il contrario invece. No, guardi, io capisco, per carità, e rispetto il pensiero di tutti, ma che questa è l'ennesima, se forse ce n'era ancora bisogno per qualcuno, persecuzione giudiziaria nei confronti di Silvio Berlusconi, è certo. Mm. Guardi, ieri è successo un fatto, l'avvocato Coppi, no, che è un avvocato tra i migliori che abbiamo, un avvocato sempre molto cauto nelle proprie dichiarazioni, ieri ha fatto delle dichiarazioni che io credo abbia convinto chi anche non era ancora stato convinto dai fatti sulla questione che per Silvio Berlusconi la giustizia in Italia e in questo paese non c'è, perché quando un professionista del livello di Coppi dice sono esterrefatto, non ho mai visto tutta questa velocità, io non so come si può fare, se c'è ancora qualcuno, ma credo che se c'è ancora qualcuno sia in malafede, ossia perché ha un'appartenenza politica ideologica dall'altra parte, cioè a pensare che non c'è persecuzione giudiziaria. Senta, lei dice che Letta le è sembrata una di quelle tre scimmiette, il che vuol dire che un'eventuale condanna avrebbe ripercussioni sul governo? Ma guardi, il governo io lo lascerei fuori da questa questione, perché noi dobbiamo come movimento politico fare delle azioni politiche, dimostrare, cioè noi non staremo silenti. Stamattina noi siamo convocati in seduta permanente dalle 9 in avanti ad oltranza al nostro gruppo, noi chiederemo, lo chiederà il nostro capogruppo Brunetta stamattina, chiederà che ci sia una moratoria sui lavori d'aula e delle commissioni, cioè che noi non parteciperemo al lavoro d'aula, non voteremo. Cioè sta dicendo che farete questo, cioè abbandonerete i lavori parlamentari? No, noi non abbandoneremo. Vede che anche lei posizione è fazioso. Cioè, il linguaggio è una convenzione. Io lei credo di parlare abbastanza chiaro. Allora ho capito male. Lei dice che chiederete una moratoria. Noi chiederemo, lei sa bene che quando ad esempio ci sono i congressi di partito, il capogruppo chiede che ci sia una sospensione dei lavori d'aula. In, in base noi, a che cosa? A differenza di alcuni, noi le regole le rispettiamo. Sì, le chiedo, in base a che cosa chiederete questo? In base a che cosa? Mi stupisce la sua domanda. In base a che cosa? In base al fatto che ci stanno per mettere in galera il nostro leader, il presidente del nostro movimento politico, e quindi vogliamo riunirci e decidere insieme che come e che cosa fare. Per però scusi, potrebbe arrivare, una soluzione in Cassazione, perché... ma sai che proprio lei mi convince? Sono certa che sarà una soluzione. Vabbè, nel perché senso... siccome per Berlusconi la giustizia c'è, lei ha ragione, Berlusconi sarà assolto. Vabbè, colgo ovviamente dell'ironia in questa sua posizione. Dovrebbe coglierne tutta la drammaticità. No, bene, colgo dell'ironia, nel senso dire anticipare, guardi, un giudizio che non... gli italiani colgano, ti ascolta, il nostro dolore, perché guardi che vivere in un paese dove c'è un golpe, dove si cerca di cancellare la libertà, la democrazia. Perché io spero che molti leggano il trattato di Voltaire, che diceva una frase molto interessante e molto attuale. Io non credo in niente di quello che tu dici, ma combatterò perché tu lo possa dire. Beh, è una frase straordinaria, io la condivido tutti i giorni. Ecco, lei la condivide tutti i giorni. Allora, io non voglio e non sarebbe giusto che tutti la pensassero come la pensiamo noi. Che però tutti, perché in questa questione noi non dobbiamo soltanto coinvolgere il nostro popolo, il popolo della libertà, ma noi dobbiamo coinvolgere tutti quegli italiani, anche che non la pensano come noi, ma che sono disposti a combattere perché noi possiamo continuare. Però, onorevole Santanchè, voi chiederete questa moratoria, se dovesse arrivare un no, cosa farete? Beh, capiremo che non c'è un governo di coalizione. Quindi, capiremo che voglio dire, ma guardi, far in questo il dico non è un'azione politica, far cadere il governo è una conseguenza di azioni politiche. In questo dico c'è il rischio per il governo, cioè se voi non avrete le vostre richieste soddisfatte. Mi faccia fare quest'ultima domanda, si è parlato di ipotesi di condanna e di ipotesi di Berlusconi che vada all'estero, trovi una situazione anche oggi sui giornali, retroscena, mi vogliono fare la fine di Craxi, lei la vede come un'ipotesi in caso di condanna possibile? Ma, guardi, io sono stata ieri col presidente Berlusconi, una frase del genere non gliel'ho mai sentita dire, non sarebbe questa frase, cioè non è Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi sta qua in Italia, combatte perché vuole fare vincere quello che è vero, perché vede, Berlusconi ha una cosa che nessun magistrato politicizzato, nessun magistrato appartenente, voglio dire, un partito politico o militante di un partito politico può togliere a Silvio Berlusconi, che la forza della verità, siccome sa bene il presidente Berlusconi come sono le cose, e allora voglio dire, questa forza della verità nessuno gliela può togliere. Visto perché che... vede, Silvio Berlusconi ad oggi è stato processato e indagato 34 volte. Sì, oggi i numeri sono sul giornale. Come? Oggi i numeri sono sul giornale, in prima pagina. Ma credo che i numeri siano un po' ovunque, perché sono i numeri che fanno capire che c'è questo disegno criminale da parte di alcuni. Va bene, io intanto la ringrazio e la saluto, staremo a vedere anche oggi come si evolverà la questione. Grazie per essere stata con noi, onorevole Daniela Santanchè, del Popolo della Libertà. Noi tra 5 minuti esatti, dopo la pubblicità, invece avremo il Ministro alla Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ai nostri microfoni per rispondere a diverse domande di attualità su questo settore così importante. 24 mattino. Eccoci, sono le 8:33 minuti in questo istante e fino alla fine della trasmissione, le 8:55, 24 mattino, con noi c'è il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che saluto e ringrazio di aver accettato questo invito. Ministro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senta Ministro, i temi come immagina sono tanti, io partirei dal rapporto con gli avvocati che si è un pochino incrinato nell'ultima settimana, come lei ben sa gli avvocati sono in sciopero fino al 16 luglio, hanno delle lamentele anche sul decreto del fare e anche sulla mancata, dicono, convocazione o mancato dialogo con lei. Intanto lei come giudica questo sciopero, lo capisce, ne è rimasta stupita? No, ma loro l'hanno proclamato subito dopo il decreto del fare anche perché il decreto del fare coincide anche con la geografia giudiziaria, sulla quale si spera di avere qualche ritocco e quindi qualche sistemazione, chiamiamola così. Quindi nasce da un desiderio di poter trovare degli accordi che siano più convenienti alla categoria. Sul mancato dialogo, beh, guardi, io non credo che ci sia, nel senso che li aspettavo e non sono venuti, ho dato la disponibilità, non si fanno sentire, quindi io sono là, quando vogliono sono sempre a disposizione. Quindi lei dice, perché due giorni fa, per esempio, il vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense ha detto, pensi che noi, mi ha detto qui a questi microfoni, siamo a un piano di distanza in via Renula con il ministro, eppure non siamo mai riusciti, possiamo salire noi o può scendere lei, ma no, non ci... No, guardi, questo è assolutamente destituito di ogni fondamento. A parte che io sono andato alla loro assemblea del Consiglio Nazionale Forense pochi giorni fa, a parte che l'ho già incontrato una volta, c'era un appuntamento fissato e 5 minuti prima dell'ora stabilita, che era all'ora 17, alle 5 minuti prima mi hanno fatto sapere che non venivano. Io ho dato disponibilità ad accoglierli, non so cos'altro si possa fare. Quindi è disposto a incontrare quando... Sì, assolutamente, c'è stato con l'incidente sicuramente increscioso di quelle parole fuori onda, che sicuramente sono state sbagliate, non lo metto in dubbio, ma dobbiamo anche non dimenticare che impedivano lo svolgimento di un congresso. Quindi lei si è pentita, allora, di aver detto quella frase? Mi dispiace, perché tutto sommato non sono stati cortesi, però nessuno ha obiettato che la gazzarra messa in atto impediva al congresso di andare avanti, al convegno di andare avanti. Allora sì, io ho sbagliato, ma anche chi impediva al convegno di svolgersi credo che dovrebbe chiedere scusa al procuratore generale e al presidente della Corte d'Appello di Napoli, che non hanno potuto svolgere la loro relazione. Quindi credo che entrambi abbiamo qualcosa da dire su quel fatto e forse bisognerebbe tenere conto di tutte le variabili. A proposito del decreto del fare, loro chiedono agli avvocati che la mediazione obbligatoria venga tolta, come la percepiscono così, una mediazione obbligatoria con proprio l'obbligo. Guardi, questo è un problema sul quale discuteremo, ovviamente, io sono pronto ad ascoltare le loro ragioni, però vede, noi abbiamo una situazione che ha tre problemi. Innanzitutto i nostri cittadini non hanno più fiducia nella giustizia, perché sanno che comunque, se mai avranno giustizia, l'avranno dopo 10-12 anni. Abbiamo gli investitori stranieri che non vengono in Italia perché non hanno fiducia nella nostra giustizia, perché i nostri tempi non sono certi, non hanno nessuna ragionevolezza, non si sa quando, si sa quando cominciano ma non si sa quando finisce. Abbiamo l'Europa che ci multa per ogni processo che facciamo oltre la ragionevole durata per la legge Pinto, per la quale spendiamo cifre spaventose e continuiamo a spenderle perché purtroppo i nostri processi vanno oltre la giornata. Quindi io credo che il Paese non possa più fermarci, il Paese deve fare un momento di riflessione, proviamo qualunque soluzione, ma io vorrei intanto evitare di spendere i soldi della legge Pinto, che potremmo utilizzarli in maniera più saggia per i bisogni di giustizia, che sono tantissimi. Ma soprattutto vuole dare risposte ai nostri cittadini. Ricordiamo, la legge Pinto è quella del risarcimento per un lungo processo, cioè chi ha un processo che non si compie entro certi anni, per la legge Pinto ha diritto a un risarcimento e lo Stato paga. Gli investitori stranieri che non vengono perché sanno che in Italia comunque non avranno giustizia, non è un problema da poco. Quindi sul punto lei dice discutere, però la mediazione obbligatoria è un qualcosa che ci chiede l'Europa e sulla quale dobbiamo andare avanti. Non la vede che poi diciamo che è stato un errore, ma proviamoci. Abbiamo corretto i punti sui quali la Corte Costituzionale aveva ripreso l'Italia, adesso proviamoci. Tentiamo. Tra l'altro non sono estranei gli avvocati, perché io vorrei che fosse chiaro anche questo. Noi abbiamo ascoltato le loro richieste, senza averle ascoltate direttamente, perché su un decreto legge, come lei può immaginare, i tempi non ci sono. Comunque, noi abbiamo fatto sì che ogni mediazione sia firmata e sottoscritta dagli avvocati, quindi gli avvocati partecipano al processo. E abbiamo deciso che ogni avvocato sia mediatore indipendentemente da qualsiasi altro titolo di che. Quindi siamo venuti a incontrare così. Possiamo parlarne ancora, io sono disponibile, però non possiamo chiuderci la porta così dicendo che io non le dicevo, perché questo è assolutamente falso. No, ma anche qui lei dice fa un invito, quando vogliono possiamo incontrarci. Ma chiamassero la mia segreteria e stabiliamo l'ora, cioè non credo che sia difficile chiamare la mia segreteria. È per questo che lei ha parlato di lobby, a un certo punto si è un po' sfogata la ma scorsa settimana, mi sa. Ha parlato di lobby che frenano le riforme, certo, del paese. Ma d'altra parte credo che tutti i cittadini italiani vedono sotto i loro occhi come le diverse lobby che ci sono in Italia pongono ostacoli su un cammino di però, quindi una di queste è anche la lobby degli avvocati. Anche quella, ma non credo che ci sia. Credo che sia un fatto talmente banale che non c'era nemmeno bisogno di dirlo, insomma. Ma cioè, comunque ciascuno difende i suoi interessi, può anche essere legittimo, vedi, io non ho detto che non è legittimo, però esiste. Perché non fare allora, la legge sulle lobby, visto che è stata rinviata? Ma è diverso, la legge sulle lobby è quando le lobby hanno delle influenze negative sul potere politico, qui è soltanto la possibilità per difendere dei legittimi interessi. Guarda, io sulla geografia giudiziaria passo metà delle mie giornate ad ascoltare le assolute e giustissime ragioni di tutti che vorrebbero che venisse fatto a vantaggio di un altro, cioè ognuno vede il suo problema, che naturalmente è un problema serio, io non lo dico, però volendo sempre che tutto venga fatto a vantaggio o a svantaggio di un'altra persona, ma non dice, cioè nessuno è pronto a fare un passo indietro per il bene comune. Il bene comune lei non lo vede molto tutelato in Italia, insomma, ognuno pensa al proprio interesse particolare. Ma è normale, cioè il problema è, credo che sia nella natura umana questo, quindi non c'è da scandalizzarsi. Però il sistema deve dare delle risposte che cerchino di essere le più eque, le più giuste possibili, ma comunque il paese deve andare avanti. Senta, Ministro Cancellieri, lei ieri era in Sardegna a inaugurare un nuovo carcere. Allora, sul tema delle carceri, la percezione del cittadino comune è i politici fanno dei provvedimenti per risolvere o affrontare il dramma, il problema del sovraffollamento delle carceri, però lo fanno come o magari delle leggi cosiddette come il decreto cosiddetto svuota carcere, oppure lei ha detto io sarei, se il Parlamento ovviamente decidesse, sarei favorevole a un'amnistia. Il cittadino comune dice, ma insomma, costruite più carceri e punto. Oh, sì, no, ma noi abbiamo una strategia complessa sulle carceri che riguarda tanti aspetti. Uno di questi è la costruzione di nuove carceri. Noi alla fine dell'anno prossimo avremo 12.000 posti in più, che non sono pochi. Tenga presente che per costruire un carcere ci vogliono anni. Ieri abbiamo inaugurato Sassari, a ottobre inaugureremo Cagliari, e la Sardegna è completamente autosufficiente con carceri moderne. Abbiamo sostituito carceri vecchie, fatiscenti, appartenenti a epoche passate, con carceri molto più funzionali e molto più moderne. E allora perché i decreti invece per affrontare la situazione ma contingente? Perché non basta, perché noi abbiamo 30.000 detenuti in più, circa 30.000 detenuti in più, a fronte di 12.000 le stiamo costruendo, le abbiamo già sul piano carcere, quindi sono già pronte. Io spero entro la fine dell'anno di riuscire a mettere in cantiere altri 4-5.000 posti, e quindi lei capisce, 12.000 arriviamo a 18.000, ma non è che possiamo riempire l'Italia, cioè ci sono anche dei costi. Però lei cosa risponde a un cittadino che dice il messaggio sembra quello di far uscire persone che devono scontare una certa pena, cioè una sorta di sconfitta guardi, per lo Stato? Molto tempo, molte persone sono nelle carceri senza che dovrebbero starci, cioè noi abbiamo nelle carceri intanto moltissimi detenuti in attesa di primo giudizio, molti dei quali escono innocenti. Allora lì bisognerebbe riuscire a distinguere abbastanza le varie situazioni per dare i domiciliari a quelli che attendono di essere giudicati, su cui non c'è la sicurezza della colpa, e questo già alleggerirebbe la pressione delle presenze in carcere. Poi abbiamo delle situazioni di persone che vanno in carcere dopo 3 giorni, 4 giorni vengono mandati ai domiciliari. Allora anche questi passaggi, seppur brevi, aggravano molto, appesantiscono molto il sistema, e le norme che noi ci siamo date sono soltanto quelle di rendere più semplice il passaggio alle pene alternative. Sì. In tutto il mondo ci sono le pene alternative. Allora se lei trova un ragazzo che ha imbrattato un muro, secondo lei è meglio mandarlo in carcere o dargli l'obbligo di pulire quel muro 10 volte? Questa è la risposta a chi dice che lo svuota carcere serve anche, cioè manda fuori dal carcere anche persone pericolose, perché questa è un'altra. No, persone pericolose non escono assolutamente. Persone pericolose, è previsto che le persone pericolose non possono mai uscire. escono persone che possono svolgere il loro lavoro all'esterno, possono rendersi utili alla società, possono pagare il loro debito con la società lavorando. Le dico, il ragazzo che sporca i muri, o un ragazzo che hanno trovato una volta con uno spinello, se va a pulire i giardini, va a lavorare per un comune, si rende utile alla società e probabilmente si ravvede di più, perché lei sa che spesso le carceri sono addirittura una scuola per il crimine. Quindi purtroppo, sì, c'è una fascia di detenuti che sarebbe meglio porre in condizioni di lavoro diverso piuttosto che farli crescere in quella scuola. Perché lei, ministro, è per l'amnistia, ha detto che è un provvedimento in caso che spetterebbe al Parlamento e che poi è diversa dall'indulto, l'amnistia cancella alcuni reati. Alleggerirebbe molto il lavoro degli uffici, e questo credo che... A quali reati si potrebbero amnistiare? In genere viene fatta la scelta su reati molto leggeri, comunque è un problema talmente politico che io rimetto del tutto alle valutazioni del Parlamento. Questa è, diciamo, la sua valutazione personale, sarebbe a favore, ma questo non ho fatto un discorso tecnico, ma il discorso politico non lo affronto proprio. Dal punto di vista del carcere del decreto, ci sono dei numeri, cioè ha già effetti il decreto che è stato approvato? No, noi prevediamo che avrà effetto su circa 5-6.000 persone nell'arco di 2 anni, quindi potrebbe, perché è un decreto che colpisce soprattutto le entrate, perché come le dicevo in alcuni casi non entrano perché non sono casi gravi di persone che devono entrare, ma sono persone che possono accedere a pene alternative, quindi dobbiamo aspettare un po' di tempo. Eccoci, siamo ancora qui in diretta con il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Ministro, lei sa che il tema politico, perché riguarda anche da vicino il governo Letta, di cui lei fa parte, il tema politico che c'è su tutti i giornali è la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi. Il 30 luglio la Cassazione ha fissato l'udienza definitiva. Intanto le chiedo, dal punto di vista tecnico, meramente tecnico, di giustizia, è un qualcosa di ineccepibile? È un qualcosa che può destare scalpore? Ma guardi, io onestamente non so i meccanismi che hanno portato a questa data, ho letto degli articoli come tutti stamattina, ma non mi sento di poter dare dei giudizi sul fatto che la Cassazione abbia deciso quel giorno piuttosto che un altro, perché non so esattamente come sia avvenuto, ecco, quindi parlerei così come persona non a conoscenza dei fatti. Io non so quanto tempo ci vuole normalmente, quali sono onestamente non saprei che dirle. Però dal punto di vista politico le ha viste le reazioni, visto che siamo in un governo di coalizione, e le chiedo, il Premier Letta ha già detto eventuali condanne o comunque una vicenda giudiziaria personale non ha ripercussioni sul governo, però non è una visione un po' troppo ottimista? In fondo è Silvio Berlusconi. Ma no, perché Premier Letta dice quello che poi dice anche Berlusconi, che i due fenomeni sono due fenomeni distinti, diciamo. Berlusconi l'ha dichiarato più volte questo, quindi andiamo avanti e vediamo come si svolgono le cose, ma io penso che si possa essere d'accordo con quello che dice il Presidente Letta. Presidente Letta, nonostante molti invece del Popolo della Libertà dicono no, non è possibile, insomma questa cosa non può passare in maniera inosservata e non avere ripercussioni politiche. Questa è la politica, sa, la dialettica della politica, poi ognuno prende le sue posizioni, ma bisogna poi vedere qual è la posizione ufficiale. Quindi di fronte anche a un'eventuale condanna di Berlusconi, secondo lei non è detto che questo debba avere per forza un incidente? Non è detto, ecco, direi che la cosa più saggia da dire sia non è detto. Non è detto, noi ma... riteniamo di no, anche perché ci sono state date diverse assicurazioni, però naturalmente vediamo l'evolversi della situazione. Senta, dal punto di vista politico molte persone in Italia dicono ma c'è una fase di stallo, per cui sull'IVA, l'IMU, anche se sono non competenti diciamo al Ministero della Giustizia, ma su tutte le tematiche dire si vedrà in autunno. Guardi, io beh, in maniera ma anche un po' è una questione di stallo adesso. Noi stiamo chiedendo al nostro Ministro dell'Economia di trovare miracolosamente una certa cifra. E non è facile, cioè abolire delle tasse anche importanti, ritenute anche importanti come l'IMU e l'IVA, sul quale si era fatto un programma, si era fatto un bilancio, e per farlo deve trovare altre fonti, e non è che i soldi si trovano così, o si tagliano le spese e riesce a tagliare le spese in maniera rapida, ma non so in quale settore, credo che sia un'impresa molto complessa, o si mettono nuove tasse che non sarebbe sarebbe assurdo, no? Ne tocchi una per fare un'altra non avrebbe senso, e quindi il Ministro dell'Economia sta cercando le risorse per fare a meno di queste entrate, e non sa se le risorse ci fossero state, forse quelle tasse non sarebbero state nemmeno messe, voglio dire. Perché, Ministro, mi scusi, tagliare la spesa è molto complesso, cioè su 800 miliardi la fatica che stiamo facendo. Penso che questa geografia giudiziaria che taglia la spesa, non in maniera straordinaria, ma comunque comporta dei risparmi interessanti per il nostro Ministero, lei pensi alla lotta che stiamo facendo da un anno? Cioè ogni volta che lei affronta un taglio di spesa combatte contro un mondo durissimo. Tenga presente poi che la maggior parte, perlomeno per quanto riguarda le spese di Ministero, io lo dico per quanto riguarda il mio, la maggior parte delle spese sono spese fisse di personale, quindi lì lei non può tagliare, deve tagliare su altri servizi che ormai sono veramente ridotti all'osso. Per esempio, quando avete provato, ci state riuscendo, nonostante dei ricorsi, a tagliare i cosiddetti tribunalini, cioè vedere la riforma dei tribunali, hanno fatto i ricorsi, ha vinto, è stato accolto solo in Corte Costituzionale quello di Urbino, però per il resto ce l'avete fatta, è quasi un evento. Però noi il 13 settembre dobbiamo partire, da qui al 13 settembre lei non ha idea di che fuoco di fila di attacchi io subisco perché qualcosa si rivede ancora. Ma questi tribunalini verranno cancellati definitivamente? Cioè possiamo dire... Soprattutto le sezioni staccate sicuramente, sul tribunale stiamo ragionandoci, ma la riforma va avanti, deve andare avanti, non può che andare avanti. Senta, le vorrei chiedere questo. Lei personalmente, riguardo alla responsabilità civile dei magistrati, sa che è stata fatta anche una proposta di legge in passato dalla Lega, poi non è sempre naufragato tutto tra le polemiche. Sarebbe favorevole a un tipo di legge di questo tipo? Ma guardi, io credo che tutto vada fatto con molto buon senso, perché un po' come per i medici, come per chiunque eserciti una funzione, questa funzione, bisogna essere responsabili della funzione che viene esercitata, perché questo è sicuramente fondamentale, ma non bisogna nemmeno intimorire chi esercita una funzione, perché se venisse intimorito poi non lo può fare con la piena libertà. Sa che quindi occorre anche qui molto equilibrio, perché poi alla fine non si può non consentire il pieno e libero esercizio della propria funzione. Molti italiani pensano che i magistrati non lavorino abbastanza, lei condivide? Guardi, noi abbiamo dei dati in cui si dimostra che invece la produttività è tra le più elevate d'Europa. Sono pareri molto, molto epidermici, ma abbiamo persone che lavorano veramente seriamente, poi come tutti i meccanismi ci sarà anche qualcuno che non lo fa nella maniera dovuta. Però tra i dati europei siamo tra le categorie dei magistrati più impegnati d'Europa, quindi credo che anche questo sia un mito da sfatare. Un mito da sfatare. Ho ancora due domande da farle, Ministro Cancellieri. La prima è questa: abbiamo letto oggi sui giornali, è un provvedimento che dovrebbe essere portato al prossimo Consiglio dei Ministri, che parificherà finalmente dopo tanti anni la questione dei figli legittimi e i figli naturali, cioè quelli nati dentro e fuori al matrimonio. Lei ci conferma intanto che è un decreto? Sì, vado al prossimo Consiglio dei Ministri. Quindi venerdì. Sono soprattutto aspetti, diciamo, patrimoniali che riguardino il riconoscimento dei quindi figli. Venerdì ci sarà questa? Sì, dovrebbe essere il prossimo Consiglio dei Ministri quasi sicuramente. Beh, è una cosa assolutamente condivisibile, cioè mi sembra... Sì, talmente. Perché talmente siamo arrivati ormai così? Ormai nella coscienza collettiva che si tratta solo di piccoli aspetti. Perché siamo arrivati così in ritardo a questa cosa che sembrava un po'... Ma questi sono più aspetti regolamentari e patrimoniali, e già poi il principio già valeva da prima. L'ultima domanda invece che le faccio è questa: la questione dei patrimoni. Sa che entro fine luglio il Premier Letta vi ha invitato anche a lei, immagino, come tutti i ministri, a pubblicare tutto entro il 28 luglio. Solo il problema della nostra vita è che corriamo talmente dietro a tante cose che alla fine facciamo fatica a fare quelle nostre, ma sia tranquillo che nella data, a costo di passare la notte in bianco a scrivere, lo faremo. Cioè lei entro il 28 luglio pubblicherà anche online, lei come tutti i ministri, qual è il suo poi stato patrimoniale? Secondo grado, quindi questo rende un po' più complicata la cosa, nel senso che comunque deve andare a chiedere ai fratelli, ai figli, insomma. No, addirittura ai fratelli e figli. Certo, secondo grado, sì. Quindi bisogna, vabbè, però è una questione, secondo non lei... Non c'è problema. Non c'è problema. L'ho fatto nell'altro governo, si immagina se lo facciamo anche con questo. C'è qualcuno che magari mugugna tra qualche collega di ministro su Ma questo? Ma non mi risulta. Diciamo che ormai sono cose che appartengono a un patrimonio culturale comune, insomma. Ministro, io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie, grazie davvero al Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, che è stata con noi, insomma, per questa chiacchierata, intervista a 360 gradi sui temi della giustizia. Sono tantissimi i temi della giustizia, potete immaginare, non è che possiamo affrontarli tutti nello spazio che abbiamo, ma insomma io penso che, visto che questa chiacchierata è a disposizione anche su, già sul sito, già o tra poco sul sito radio24.it, vi invito, se volete, a riascoltarla, così come l'intervento a Daniela Santanchè del Popolo della Libertà, che invece ha usato parole insomma molto più tra virgolette minacciose sulla possibile tenuta del governo Letta per la vicenda Berlusconi. Noi ci fermiamo, ringrazio Alessandro Longoni, Laura Faggin, Anita Panizza in redazione, così come ringrazio l'Alpino, Peter Bescapè in regia, vi do le coordinate per seguirci, intanto la mail se volete 24mattino@radio24.it, non la do mai, siamo su Facebook così 24mattino, siamo su Twitter 24mattino, è abbastanza semplice, no? È ripetitivo. Ci sono anch'io su Twitter, il mio profilo personale Alino Milan, e che dire, abbiamo detto tutto? Sì, ci ritroviamo domani? Sì, siamo sempre qua alle 6:30, a domani 24 mattino.